Cantadino il contadino, conto poco, conto niente, cosa mangerà la gente quando non ci sarò più? Cantadino il contadino, mentre sta zappando l'orto, quando Dino sarà morto, mangerete la TV? Splain, peck, peck, peck, peck, splain, peck, peck, peck, peck, splain, peck, peck, peck, peck, splain, peck, peck, peck, peck, alimentazione equilibrata, dieta mediterranea consigliata, nutrizionista dammi la lista, tu sì che sei un professionista, mucca pazza finta è la razza, olio radiossina che carneficina, fino al metanolo qua ci vedo il dolo, uova salame gusto al verde ram, avvelene padroni con verde ramu, pigelia o ramu, pigelia o lammu, avvelene padroni con verde ramu, fate con politico su tepe, su tepe, su tepe, su tepe, su tepe, su tepe. Organi geneticamente modificati, oggi M da tutti sono chiamati. Frutta doppata, dodo doppata, marmellata, clo clonata, cibi alterati, troppo trattati, geneticamente modificati, nutrizionista, che brutalista, guadagno indotto al medico corrotto, allunghi la fila degli ospedali, altro che curarci, tu ci ammali per i tuoi interessi senza compromessi, distruggi la natura e la vita futura. Au! Salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a contadino. Bisogna coltivare una logica migliore e non eliminare il biocoltivatore. Salute perfetta senza fretta, questo è logico se magico etico biologico. Non c'è veleno nella sua verdura, qualità ortaggi sempre pura, fresca di giornata viene consigliata, spesa dimezzata, buono sapore, vita migliore senza inganni, senza malanni, senza inganni, senza inganni, senza malanni, senza inganni, senza malanni. Splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa. Salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino. Splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa tu pa, splen, spacco tu pa pa tu pa. L'uomo del monte ha detto sì agli OGM. La valle degli orti son tutti morti. I madoli ha detto sì alla diassina, alla varichina. La natura di prima mano, di seconda, di terza, chilometri, chilometri, seconde. Salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino, salva contadino se vuoi bene a tuo bambino.